GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Svolta nelle indagini per la morte di Liliana Resinovic con l'iscrizione nel registro degli indagati del marito della donna, Sebastiano Visintin, per omicidio volontario dopo un sopralluogo dell'abitazione durato 7 ore. Vigilia delle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia che prevedono il rinnovo dei comuni di Nimis, San Pier di Sonzo, Monfalcone e Pordenone. In giornata l'allestimento dei seggi e l'insediamento degli scrutatori. Al via le Olimpiadi di primo soccorso dedicate agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie superiori e promosse dalla Croce Rossa Italiana nel centro storico di San Vito al Tagliamento per diffondere la cultura del soccorso. Doppio appuntamento a Cimolais, dove stamane è stato inaugurato il centro visite del recinto faunistico di Pian Pinedo dedicato a un'esperienza dal vivo tra gli animali selvatici delle Alpi. Nel pomeriggio sarà poi ricordata la figura di Enzo Cainero, storico patron del Giro del Friuli. L'Assemblea regionale del CONI ha eletto a Palmanova il suo nuovo presidente. Si tratta di Andrea Marcon, già presidente nazionale della Federazione Italiana Softball. Succede al presidente uscente, Giorgio Brandolin. L'Udinese fa da spettatrice davanti a uno straripante Milan che si aggiudica per 4-0 l'anticipo di Serie A. Bianconeri mai in partita e in balia dell'avversario. Fra i rossoneri, serio infortunio al portiere Maignan, tornato allo Stadio Friuli dopo gli episodi di razzismo dello scorso campionato. Poco fa, Maignan è stato dimesso dall'ospedale di Udine. In occasione dei suoi 50 anni di attività, il paroliere produttore musicale Mogol, accompagnato dall'orchestra Naonis di Pordenone, sarà il protagonista questa sera a Pontebba dello spettacolo Mogol, racconta Mogol. Le 12:32 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bears e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 12 aprile. In apertura dunque ancora la cronaca con la svolta nelle indagini per la morte di Liliana Resinovic e l'iscrizione nel registro degli indagati del marito della donna Sebastiano Visintin per omicidio volontario. Il suo appartamento è stato perquisito con un sopralluogo notturno durato 7 ore. Si trova a Felden, una ventina di chilometri fuori dal confine italo-austriaco e meno di 2 ore e mezza di strada da Trieste, Sebastiano Visintin, ufficialmente indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovic. L'iscrizione nel registro degli indagati è arrivata al seguito di una lunga perquisizione durata tutta la notte tra martedì e mercoledì. Sono provato ma tranquillo, ci ha detto al telefono, mi trovo in Austria dove farò un giro in bicicletta e poi andrò in sauna. Visintin ha aggiunto di essere a disposizione degli inquirenti che spera di essere sentito la prossima settimana dalla pubblico Ministero Ilaria Iozzi, da un mese titolare del fascicolo. Nel corso della perquisizione della sua abitazione sono stati sequestrati un paio di guanti, indumenti, un paio di forbici e una decina di coltelli, molti dei quali, secondo Visintin, sono entrati in suo possesso ben dopo il 2022. Visintin è per ora l'unico iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Lui parla di atto dovuto dopo che gli ultimi rilievi dell'antropologa forense Cristina Cattaneo avevano evitato l'archiviazione del caso da parte del GIP Luigi Dainotti. No comment da parte del suo legale Paolo Bevilacqua. L'avvocato Obizzi, che rappresenta la nipote di Resinovic, ha parlato di possibile svolta, mentre da parte del fratello Sergio, che aveva spinto molto sulla figura di Visintin chiedendo luce agli inquirenti con delle lettere, parla la consulente psicologa forense Gabriella Marano. È un passo in avanti, ora Sebastiano dovrà spiegare alcuni comportamenti sospetti. Il nuovo gruppo di lavoro ha deciso di dare velocità e profondità alle indagini. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, a Trieste la polizia ha arrestato un giovane veneto di 23 anni, studente universitario, per possesso non autorizzato di precursori per la sintesi delle droghe e produzione di sostanze stupefacenti. Si tratta del primo arresto effettuato in Italia per il possesso di precursori di droghe. Si tratta infatti di sostanze chimiche di cui è consentito l'acquisto e la vendita esclusivamente a persone giuridiche che per tale motivo sono difficilmente reperibili sul mercato legale, ma al contrario molto diffuse nel cosiddetto dark web. Lo studente, secondo la polizia, gestiva un sito internet per la vendita di prodotti chimici che subito dopo la diffusione della notizia è stato chiuso. Oggi è la giornata di silenzio elettorale alla vigilia delle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia che prevedono, lo ricordiamo, il rinnovo degli organi di 4 comuni, tutti oggetto di scioglimento anticipato. Si tratta dei comuni di Nimis e San Pier di Sonzo, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e dei comuni di Bonfalcone e Pordenone, con popolazione superiore ai 15.000. A Monfalcone e Pordenone, se uno dei candidati alla carica di sindaco non dovesse ottenere almeno il 40% dei voti al primo turno, è possibile il turno di ballottaggio. In giornata l'allestimento dei seggi e l'insediamento degli scrutatori. Le operazioni di voto si svolgono in due giorni, ossia nella giornata di domani, domenica 13 aprile dalle 7 alle 22 e nella giornata di lunedì 14 aprile dalle 7 alle 22. Le operazioni di scrutinio cominceranno martedì 15 aprile dalle 8. L'eventuale ballottaggio si svolgerà nella giornata di domenica 27 aprile dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì 28 aprile dalle 7 alle 15, con scrutinio a seguire. L'Agenzia Internazionale di Valutazione del Credito e Rating Fitch, operativa con due quartier generali a New York e a Londra, è considerata una delle tre agenzie di valutazione del credito a livello mondiale, ha assegnato alla regione Friuli Venezia Giulia il rating A- con outlook positivo. La notizia è stata accolta dal governatore Massimiliano Fedriga come una conferma della gestione positiva condotta dall'amministrazione regionale, che mostra agli investitori anche esteri, ha aggiunto Fedriga, le capacità di performance e di attrarre nel territorio regionale nuove occasioni di sviluppo. Fiume Veneto ospita oggi la 54esima edizione dell'Assemblea regionale Avis, in cui saranno forniti i dati sull'andamento delle donazioni di sangue e plasma in regione e si discuteranno i programmi futuri dell'associazione. Appuntamento nella sala convegni di Villa Fossamala dalle 14.30. E sempre oggi al via le Olimpiadi di Primo Soccorso, iniziativa dedicata agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie superiori e promossa dalla Croce Rossa Italiana nel centro storico di San Vito al Tagliamento, per diffondere la cultura del soccorso. Una dozzina le scuole partecipanti alla competizione, che suddivise in squadre affrontano prove e pratiche ispirate a situazioni reali di emergenza, come appunto sentiamo da questa intervista che mandiamo ora in onda. Che cosa sta succedendo oggi? È la fase conclusiva di queste Olimpiadi di Primo Soccorso, siamo alla terza edizione e qui quest'anno hanno aderito 12 istituti della regione, esattamente sono 6 istituti della provincia di Udine, 4 di Pordenone e 2 di Gorizia. E la fase finale, la squadra vincitrice rappresenterà il Friuli Venezia Giulia nella fase nazionale che si svolgerà probabilmente a Roma il 24 maggio. Perché è importante questo tipo di attività? Innanzitutto è una priorità che la Croce Rossa si è data, quella di far conoscere le manovre salvavita che vanno fatte nel momento in cui ci si trova davanti a un'emergenza sanitaria, quindi avere persone capaci che sanno agire nel momento del bisogno è fondamentale. E questo discorso del primo soccorso chiaramente si riallaccia anche a un progetto che la regione aveva già avviato qualche anno fa, quello dell'acquisto, la distribuzione di defibrillatori nelle scuole e la formazione anche di persone all'utilizzo del defibrillatore. Vorrei sottolineare soltanto che questo progetto ha fatto sì che la Croce Rossa abbia abilitato all'uso del defibrillatore circa 1500 persone. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'intervista che abbiamo appena sentito era Giovanni Antonaglia, vicepresidente regionale della Croce Rossa. Il questore di Trieste Lilia Fredella, la direttrice del carcere triestino Selena Marchiori e la comandante della polizia penitenziaria Anna Maria Peragine erano presenti questa mattina alla raccolta fondi per l'acquisto di strumentazione per l'ospedale infantile Burlo Garofalo in Galleria Protti. La raccolta fondi proseguirà fino alle 19. E propone l'acquisto di una colomba di pace, l'iniziativa organizzata dalla ONG Emergency, dedicata al supporto delle vittime di guerra nei paesi in cui l'associazione è attiva, cioè Gaza, Ucraina, Sudan, Afghanistan e Iraq. Oggi e domani è possibile acquistare una colomba di pace di 750 grammi, prodotto da uno storico marchio della tradizione dolciaria italiana, al prezzo di 20 euro. A Trieste è possibile acquistare la colomba di pace in Piazza della Borsa fino alle 19.30. Il dolce è poi acquistabile anche sul sito dell'associazione Emergency. Seconda edizione del Green Energy Day, giornata nazionale dedicata alla transizione energetica, che prevede visite guidate gratuite a siti e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e in aziende che abbiano intrapreso un percorso di efficientamento energetico. Per l'occasione, questa mattina in regione è stato organizzato un open day all'impianto a biogas della Giove Energy SRL, società agricola di Pavia di Udine. Il comitato Salviamo il Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni ha organizzato una manifestazione di protesta al progetto di condotta del consorzio di bonifica e per sostenere il progetto di un bypass del lago che, secondo i promotori della manifestazione, potrebbe ripristinare le originarie condizioni di naturalità del lago. Appuntamento alla riva sud del lago alle 14. A Cimolai questa mattina è stato inaugurato il centro visite del recinto faunistico di Pian Pinedo, dedicato a un'esperienza dal vivo tra gli animali selvatici delle Alpi. Nel pomeriggio poi in programma il ricordo della figura di Enzo Caineri, storico patron del Giro del Friuli, appassionato di montagna, scomparso nel 2023. L'evento in cui sarà anche proiettato un intervento di Caineri sull'eccellenza delle terre alte della regione. A seguire poi in prevista anche una tavola rotonda sulle risorse alpine, appuntamento alla sala convegni del centro visite del Parco Naturale Dolomiti Friulane alle 15.30. Tra i partecipanti alla tavola rotonda Marco Bussone, presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, a cui abbiamo chiesto un'anticipazione del suo intervento. Metteremo in risalto come la montagna non sia un margine. Dal Friuli Venezia Giulia diciamo che le Alpi sono al centro dell'Europa per costruire nuove opportunità per chi già ci vive e per chi ci vuole vivere. Dobbiamo costruire un rapporto più forte con le aree urbane, fra aree montane e città, e questo è un processo che è appena partito, che deve vedere tutti i protagonisti, anche i sindaci dei comuni capoluogo. La montagna non è un margine, è il luogo dove l'acqua, le foreste, il clima rispondono, se ben utilizzati, alla crisi ecologica che stiamo vivendo e anche a nuove prospettive di crescita, generando nuove economie, nuovi posti di lavoro. Pensiamo al settore forestale. Lo spopolamento non è inesorabile, la crisi demografica si può contrastare con adeguate politiche, investimenti sui servizi, medici, trasporti, sanità, scuole, affinché chi già c'è possa rimanere, famiglie in particolare che possono avere opportunità di restare lì e salvaguardare anche chi sta a valle. Senta, tra le varie criticità che lei adesso ha citato, quindi servizi, sanità, trasporti, scuole, quali al momento quelli che frenano maggiormente lo sviluppo delle terre alte? Beh, io credo che dopo il Covid abbiamo capito che serve una nuova sanità territoriale. Le persone hanno bisogno di percepire sicurezza, avere sicurezza, sapere che se hanno un problema di salute non hanno un ospedale a 70-80 chilometri, ma ce lo hanno vicino. Questo si può garantire con servizi in emergenza migliori, con medici di base riorganizzati su base territoriale in modo più efficace. Chiaro, servono investimenti, e di questi giorni il nuovo piano sulla strategia per le aree interne, che con la legge sulla montagna che verrà varata a breve, può dare opportunità. Dobbiamo crederci e lavorarci. E ora la pagina del tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature: a Trieste 19 gradi, a Udine Gorizia 20, a Pordenone 18 gradi e mezzo, a Tolmezzo 18 gradi, a Forni di Sopra 16, a Treviso 14 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 11 gradi. Sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 7 gradi e 5 decimi, a Grado 20 gradi, a Lignano 18. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore: cielo in genere poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità, zero termico a 3.000 metri circa, brezza sostenuta. E siamo agli spettacoli. L'Orchestra Sinfonica di Vienna si esibirà stasera in musiche di Mozart e Mahler nella cornice del Festival Primavera da Vienna a Trieste al Politeama Rossetti alle 19.30. Ieri c'è stato il primo concerto. Da un lato le musiche scritte da Verdi per i balletti e le scene di massa all'interno delle sue opere della piena maturità, dall'altro il primo atto della Valchiria di Wagner. A fare da collante tra questi due mondi, un'orchestra viennese con 125 anni di storia, capace di suonare quando occorre come un solo strumento, ma anche di fare risaltare tutti i particolari di una scrittura sinfonica che in entrambi i casi è raffinatissima. I Wiener Sinfoniker hanno aperto in questo modo non scontato la loro 3 giorni al Politeama Rossetti. Sotto la bacchetta di Peter Popelka, nella prima parte si sono dunque alternate il trionfo dell'Aida, le danze sinfoniche per Macbeth e quelle davvero introvabili per la prima parigina del Don Carlos. A dar vita ai miti wagneriani, come solisti, sono stati il tenore Michael Spires, il soprano Sarah Wegener e il baritono Georg Zeppenfeld, per una recita di livello assoluto che ha inchiodato per un'ora alle poltrone un Politeama Rossetti alla fine entusiasta. Si replica stasera con Mozart e con Mahler, e domani con un programma di musiche di danza che parte dagli Strauss e arriva fino a Tchaikovsky. Un gemellaggio in musica tra due città, Trieste e Vienna, che prosperano ancora oggi sulla loro internazionalità e sulla diversità che rende entrambe ricche e aperte, per citare l'assessora alla cultura del comune di Vienna, Veronica Kaup-Hassler, che ha aperto la serata insieme al sindaco di piazza, con pagine che sono parte integrante dell'identità di un'Europa consapevole delle proprie radici culturali. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione dei suoi 50 anni di attività, il paroliere e produttore musicale Giulio Rapetti Mogol sarà protagonista dello spettacolo Mogol racconta Mogol. L'artista sarà accompagnato sul palco dall'Orchestra Anonis di Pordenone, diretta da Walter Sivilotti, e dal cantante Michele Cortese. In scena le collaborazioni artistiche con Lucio Battisti e altri big della musica come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi e Dalla, riservando uno spazio particolare ad aneddoti, racconti e confidenze. Appuntamento a Pontebba al Teatro Italia alle 20.45. L'evento celebra anche il 50° dalla fondazione del teatro. Apprendere, adeguarsi ai tempi e soprattutto puntare sulla credibilità sono i consigli che Mogol, il celebre autore di canzoni che ha fatto la storia della musica leggera italiana, dà agli studenti del Conservatorio Tomadini di Udine. Un incontro d'eccezione e tappa del suo passaggio in Friuli Venezia Giulia in occasione dello spettacolo concerto a Pontebba dal titolo Mogol racconta Mogol. Se io dico a una persona, no? A una donna, gli dico: senti, io ti amo, giusto? Questa è credibile. Se io vado là e gli dico: senti, io ti amo, dice: ma sei scemo, giusto? Essere credibili, essere autentici, secondo il maestro, è questa la formula. Io mi allaccio al senso della musica e a cose vere, perché inventarsi le cose salta fuori qualcosa che non è più credibile, che siamo tutti professionisti della vita, no? Quindi inventarsi qualcosa che non sia aderente alla vita ha meno forza. Per gli studenti l'incontro con Mogol è un'opportunità importante per imparare. La maggior parte di noi scrive, siamo cantautori, quindi ovviamente per noi è un grande esempio. Una leggenda della musica italiana, una persona che ha saputo ridefinire completamente i canoni del concetto di canzone d'autore. A me piacerebbe di più diventare appunto compositrice, quindi scrivere musica, anche testi, anche canzoni per l'appunto. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport. L'assemblea regionale del CONI ha eletto poco fa a Palmanova il suo nuovo presidente. Si tratta di Andrea Marcon, già presidente nazionale della Federazione Italiana Softball, che con 43 preferenze ha prevalso sull'altro candidato Giovanni Adami, che ha ottenuto 16 voti. Marcon succede al presidente uscente Giorgio Brandolin. Andrea Marcon è il nuovo presidente regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, succede a Giorgio Brandolin. Un'eredità pesante quella che lei deve raccogliere. Sì, un'eredità pesante ma anche stimolante. Noi veniamo dalla gestione del CONI regionale meravigliosa, ma da sempre, dal primo presidente Civelli fino a Giorgio, quindi è una base di partenza molto alta, questo alza ovviamente le aspettative, ma siamo pronti, abbiamo voglia perché lo sport del Friuli Venezia Giulia emerga sempre di più. Eravate due candidati, ma c'è stata un'assemblea praticamente univoca. Allora, intanto devo dire la verità, la cosa più bella è stata proprio l'assemblea, dove io e Giovanni Adami ci siamo confrontati sui contenuti senza nessun tipo di polemiche e quant'altro, proprio finalizzato al bene di tutto lo sport regionale. Poi il risultato è andato come è andato, io ho già chiesto a Giovanni di darmi una mano per il futuro perché le sue competenze non possono essere così cancellate da una votazione. Ringrazio ovviamente tutti i presidenti che mi hanno votato e ringrazio anche quelli che non mi hanno votato perché sono lo stimolo a fare meglio. Le sue priorità? Beh, sicuramente la scuola, l'attenzione per l'atleta e conseguentemente per i tecnici che portano questi atleti, tante iniziative fatte a supporto delle società, non si fa assistenzialismo, a supporto delle federazioni e aiutare quanto posso a vedere far crescere il movimento sportivo agli occhi anche della nazione. Perché noi siamo una regione speciale, non solo perché siamo un'autonoma, ma proprio per tutto quello che facciamo. Primo importante appuntamento saranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, dove il Friuli Venezia Giulia ha atleti in odore di medaglia. Sì, beh, il primo più importante per noi è il trofeo CONI a settembre, che sarà molto impegnativo a livello organizzativo. Dopodiché sono certo che la rappresentanza regionale alle Olimpiadi di Milano Cortina sarà folta. Tifferemo per i nostri atleti e per tutti gli atleti che indossano ovviamente la maglia azzurra. È impressionante pensare ai dati che produce questa regione, specie rapportata all'ampiezza del territorio. Palmanova, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al calcio. L'Udinese ha fatto da spettatrice davanti a uno straripante Milan che si è aggiudicato per 4-0 l'anticipo di Serie A. Bianconeri mai in partita e in balia dell'avversario fra i rossoneri. Serio infortunio al portiere Maignan, tornato allo Stadio Friuli dopo gli episodi di razzismo dello scorso campionato. Maignan che poco fa è stato dimesso dall'ospedale di Udine. Biol, non una bella Udinese. Di fronte c'era il Milan, però stasera sembravate troppo, non avete aggredito come sapete fare di solito. Sì, soprattutto secondo tempo è stato malissimo. Primo tempo non possiamo dire che abbiamo giocato male. Abbiamo preso due gol stupidi di ultimi minuti di primo tempo e dopo difficile. Secondo tempo sì, abbiamo giocato come un bambini, diciamo. È stato brutto, ma dobbiamo andare avanti, sono ancora 6 partite, dobbiamo fare più punti possibili. Anche perché la quarta sconfitta non incide magari sulla classifica, però incide sul morale, anche sulle aspettative dei tifosi. Sì, sicuro, ma porta un po' di negatività, ma anche un po' di pressione che forse è un po' mancata adesso in queste partite. Non sta male per le prossime. Senti, può essere importante l'assenza di Toven? Pensi che sia uno dei motivi? Oh, ma uno dei motivi sicuro, ma non solo questo. Non abbiamo stati altri abbastanza bravi per portare squadra avanti, per portare punti a casa in alcuni momenti più importanti in partita. Non abbiamo fatto bene, alla fine questo decide di partite di Serie A. L'intervista era di Sebastiano Franco. Per il basket in A2 impegno casalingo per la Gesteco Cividale, che affronterà l'Urania Milano con inizio alle 20. Domani big match fra Apu, Udine e Rimini alle 18, mentre in Serie A1 la Pallacanestro Trieste sarà di scena sul parquet di Venezia alle 18:15. Per la pallanuoto a Trieste d'oggi in programma il girone di andata della Serie A Silver di pallanuoto paralimpica federale. La partita d'esordio, quella disputata alle 8:45 tra la Pallanuoto Trieste contro la Grande Cuneo. Per la pallanuoto femminile, nella nona e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie 1, le Orchette alla Bardate ospitano il Cosenza, pallanuoto alla Bruno Bianchi con inizio alle 17. Box, prima giornata di competizioni per il 13° Memorial Menzo Battimelli, in programma la polisportiva Opicina dalle 18 in occasione del 50° della fondazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Sportivo Trieste Pugilato. Evento clou di oggi, gli incontri tra le nazionali Under 19 d'Italia e Polonia. Domani sulla terza rete Rai a diffusione nazionale andrà in onda la rubrica Est-Ovest. Sentiamone una anticipazione. L'Europarlamento ha rinnovato l'appoggio morale e militare all'Ucraina. Il cementificio di Anhovo in Slovenia brucia rifiuti, ma gli abitanti protestano per l'inquinamento. Cipro, che l'anno scorso ha ospitato 5 milioni di visitatori, punta sul turismo sostenibile. Le reti della società civile in Kosovo, create per aiutare le vittime degli stupri di guerra. W, romanzo di Igor Stix, intreccia il 68 francese, gli anni 70 in Italia e l'assedio di Sarajevo. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze radiofoniche, sarà trasmessa alle 8:50 la rubrica Vita nei Campi. Questi gli argomenti della puntata. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura la rassegna Filari di Bolle, che a Casassa della Delizia fa il punto sulla situazione degli spumanti in regione. A seguire la storia di Angelo Floramo ci parla ancora degli odori e profumi della campagna e oggi ci porta nei giorni della Pasqua. La semina diretta è un passaggio cruciale per ottenere l'obiettivo di migliorare la fertilità del terreno. E ancora, assaggio radiofonico radiofonico per il Riesling Renano nella rubrica dei sommelier, pasta di limoni fermentati all'aglio orsino e la suggestione primaverile per la rubrica della conservazione dei cibi, nello spazio dei fiori l'alobelli e i suoi colori particolari che impreziosiscono il giardino. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora un paio di appuntamenti prima di chiudere. Serata di premiazione per il premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est, giunto alla 32esima edizione, cui interverrà Stefano Zecchi, già docente di estetica all'Università di Milano, per portare una sua riflessione sulla cultura italiana e la letteratura. Saranno poi consegnati i premi della giuria dei ragazzi all'Inverno della Lepre Nera di Angela Tognolini e della giuria dei lettori ad Alma di Federica Manzon. Infine sarà annunciato il vincitore del premio Narrativa, individuato dalla giuria tecnica, tra i tre finalisti Montagne Nere di Dario Colombo, I Dieci Passi dell'Addio di Luigi Nacci e L'Oscura Morte di Andrea Palladio, scritto da Matteo Strucul, alla Tisana, al Teatro Odeon, alle 20.30. Lo scrittore e avvocato udinese Cristiano Caracci presenterà oggi il suo ultimo libro intitolato Ombre e segnali dal mare, che propone una raccolta di racconti ambientati fra Friuli, Aquileia, Ragusa, Venezia e il Mar Nero dai tempi di Roma all'Ottocento. Appuntamento a Grado alla Lega Navale Italiana alle 18. E alle 12.56 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Pasquale Nocera e Federico Comar. Collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il GR alle 14.30. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.